Pane, burro e rock and roll, sono le 7 e 31 minuti primi. È decollata l'astronave dagli studi di Via Locatelli 1, 20124 Milano. L'Ariele, Spadino e Freccantoni. Puntata numero 19, dove facciamo sul serio. Un abbraccio a PG. Riesco a leggerla, aspetta. Un abbraccio ad Andrea da Milano. Gibson, a che ora ci vediamo domenica? Facciamo 21.30? Facciamo 21.30, dai. Anche Gian, com'è? Tutto a posto qui. Un saluto anche a Maddalena, che chiede se le ricordo le frequenze di Rock FM. Fatemi fare un po' lo sborone. Sai, Maddalena, ne abbiamo talmente tante che non me le ricordo. Visita www.radiorockfm.com, le trovi tutte. Un saluto alla moglie Miriam, che è un po' gelosa perché ascolta più noi che non lei. Lui è... E salutiamo anche il suo bimbo di 15 mesi, firmato un nostro fan. Che bello. Grazie amici, 335-100-7777. I Cure hanno un'idea geniale a quest'ora della giornata. Let's go to bed. Si va tutti a letto? Che è piena di personaggi mitici che purtroppo non ci sono più. Questo giovedì 27 settembre il ricordo va doverosamente al mitico bassista dei Metallica, Cliff Burton, che moriva proprio il 27 settembre del 1986. È particolare come tutte le morti che spesso e volentieri andiamo a ricordare siano in qualche modo leggendarie. Anche su Cliff Burton ci sono parecchi aneddoti molto particolari. Posso ricordarle come morì il povero Cliff Burton? Dei Metallica, certo, muori giovane, vivi in eterno. Cosa gli successe? Stavano viaggiando sul tour bus ufficiale del tour europeo nei pressi della cittadina di Ljugby in Svezia. Senta qui, Burton e Kirk Hammett, giunto ormai sera, decisero di giocarsi a carte il posto nel letto a castello del loro bus. Il vincente avrebbe dormito vicino al finestrino, il perdente dal lato opposto. Burton vinse e dormì nel posto più prestigioso. Durante la notte l'autista del bus perse il controllo del mezzo, forse a causa di una lastra di ghiaccio sull'asfalto o a causa dell'abuso di alcol, come molti sostennero poi. Ormai fuori controllo, il grosso veicolo continuò la sua corsa in un tratto d'erba per poi ribaltarsi. Dalle lamiere contorte uscì per primo lo stesso autista, seguito da James Hetfield, Kirk Hammett, che avevano piccole abrasioni sul corpo, e infine il batterista Lars Ulrich, che aveva solamente un alluce fratturato. Purtroppo invece Cliff Burton, che ironia del destino, aveva vinto il posto migliore a carte, morì in questo incidente sul tour bus. Che cosa strana. Sì, è vero. E questo ci insegna anche che l'apparenza inganna. A volte vincere significa poi perdere e viceversa. Quindi se oggi perderete, amici e amiche in ascolto, non lasciatevi abbattere. Non date troppo credito alle apparenze. A pane, burro e rock and roll non potevamo quest'oggi non ricordare Cliff Burton. Lieve ritocco alle sonorità mattutine di Rock FM, ci siamo concessi quest'oggi una gustosissima Seek and Destroy per ricordare in questo 27 di settembre il buon Burton. Metallica ovviamente nella diretta, io me li vedo i metallari all'ascolto che se la sono goduta tutta quanta, è un regalino che abbiamo fatto ovviamente a tutti gli appassionati del genere. 7:44 minuti primi, gestiamo sempre l'attimo qui dalle frequenze di Rock FM, pane, burro e rock and roll con l'Ariele e ovviamente tutti voi al 335-100-7777. Involontariamente partono dei tormentoni che poi ci sfuggono di mano, questa cosa la devo confessare. Vado a salutare Silvia per il reparto Lampioni Crepuscolari, tra l'altro il nostro faro è ancora acceso qui di fronte a noi, è già tardi, di solito ci molla alle 7:20, 7:27, questo per farvi capire quanto Milano sia ancora un po' scura. È inquietante il messaggio di Silvia che segnala giornata buia oggi, ma i crepuscolari sulla tangenziale nord si sono già spenti nel mio senso di marcia. Nell'altro invece sono accesi. Buona giornata a tutti, Silvia. Adesso spiegatemi questa. Se vanno a regolazione della luce, perché a destra si spengono e a sinistra no? Sapute in linea all'ascolto. A tutti gli elettricisti all'ascolto, perché so che ce n'è. Le prime segnalazioni, quelle un po' più precise, erano di gruppi d'ascolto di elettricisti. Un saluto a Carlo, che vorrebbe Rock FM in tutta Italia. Un saluto a Lem, oggetto, Davide verso Golia. Ma chi è Davide e chi è Golia? Ritenendovi i più grandi nell'ambito rock, occhio, dovesse ancora vincere Davide, sarebbe un disastro, caro Lem. Merci beaucoup, ma ricordati, la nicchia vincerà. Questo messaggio di Jimmy, papà di Jimmy. Poi il test non l'ho superato. Che il rock and roll fosse distratto? No, Jimmy, perdonaci. Riproviamoci, mi raccomando, tieni duro. Uff, quella era una brutta notizia. Buongiorno dalla pazza razza della notte, in una Campi Bisenzio dove il cielo è massene. Ancora uno, ragazzi, siete intentissimi quest'oggi, Ciao Ariele, mi consigli un grande disco di Janis Joplin? Scusa se non so come si scrive. Sì, effettivamente non si scrive così, ma tranquillo. Che cosa vuoi che ti consigli di Janis? Qualsiasi cosa, Tra l'altro è pieno zeppo di greatest hits, di compilation con i più grandi successi, quindi se vuoi andare sul tranquillo vai su quello, ma in realtà qualsiasi album di Janis Joplin. Magari Cheap Thrills, Pearl, quello che vuoi, se c'è Janis che canta è una garanzia. Reparto cartoline? Ne pigliamo un po', Freak? Ti fa qualche saluto? Se lo meritano, eh? Ma che bello poter approfittare del mezzo radiofonico per chiudere gli occhi qualche minuto e viaggiare, allontanarsi dalla Cupa Milano grazie alle migliaia di cartoline postali che continuano ad arrivare. E in questo caso sono un pochino, in questo caso diventano i nostri tappeti volanti. Esatto, pensi, bravo. Pensi che, guardi, che immagine esotica che le ho questa sfornato. Questa immagine del tappeto volante io le proporrei di salire sopra questa cartolina, col dubbio che in due probabilmente non ci staremo, ma viaggiare fino al Marocco. Il Marocco tipico è quello che rappresenta questa cartolina, che arriva da Tangeri. Chi lo sa? Io direi Tangeri. Pronuncia indecisa. Qua vi sareste divertiti sicuramente, scrive un amico. Ciao, ci si risente a settembre. Descriva immediatamente la fronte di questa cartolina. Il Marocco tipico. Ma è meraviglioso. È la fotografia è che band. Riproduce una band al centro della scena, sì. Mentre sullo sfondo abbiamo un riccamente decorato salottino marocchino, sembra Tangeri, un ristorante o forse un pub marocchino, dove ci sono in primissimo piano due danzatrici belle, a mo' di colonne laterali, sì. Sì. E al è centro una band tipica con delle tuniche bianche che strumenti potrebbero avere un mandolino gigante, un violino, uno djembé, un tamburellino e un flauto. Bautino. Sì, è vero. Complimenti, grazie, vero, grazie. Però sullo sfondo, le faccio notare DJ Ariene, sì, sullo sfondo una batteria con tanto di piatto, sì, di sì, splash. Sì, una batteria normale, va bene. Grazie mille all'amico che ci ha fatto viaggiare in Marocco, come un grazie va anche ad Aurora, direi, questa potrebbe essere la firma, scrive: questa cartolina è veramente rock, cari Ariele e maestro Fricantoni, non vi preoccupate, le mitiche cartoline rock non scompariranno mai, questo non è un baci da Napoli, ma perlomeno è un saluti e tracu tracu da Kirk. Kirk. Kirk è il nome della città. Che si trova? Che si trova, scusi? Sul mare, perché sul c'è mare. Un mare, una barca a vela, sì, e anche un pezzo del municipio di Kirk. Sì, sì, esotico, esotico. O magrebino o forse... secondo me è croato, dell'est, potrebbe essere. Va bene, l'ignoranza europeo. Geografica, Repubblica Hrvatska. Ecco, ne sappiamo bene. Molto di più. Grazie a chi ci ha fatto viaggiare comunque a Kirk. E viaggiamo a Los Angeles, America! Yeah. Questa la sapevo. Grattacieli che si stagliano sopra delle montagne innevate. Questa parte del... una sintesi straordinaria. Del viaggio di nozze. Senta qua, Frick, Silvia e BLD che ci salutano e scrivono: anche in viaggio di nozze ci mancate voi! Ah, vecchi zozzoni! Ah, straordinari! E forse un invito per un incontro per divertente a 3-4, giusto per sa chiacchierare tra noi. Che potremmo assolutamente istituire uno Ius Prime Noctis con i radioascoltatori e le radioascoltatrici che convolano nozze. È una buona idea? Ma sì, per noi sì, per noi sì, forse per loro meno, ma ne possiamo discutere. Discutiamone. Discutiamone, parliamone a lungo. Sesso orale, parliamone. E beh, che c'è? Lemonheads, If I Could Talk, I Tell You. Veloci, veloci. Quest'oggi la puntata è talmente ricca che non riusciamo a star dietro ai secondi, ai minuti, per arrivare precisi, come solo a noi di Pane e Burro e Rock and Roll piace fare. Precisi, ma dove? Abbiamo Carlo della tabaccheria di Milano, lo sento già pronto, essendo oggi giovedì. Dobbiamo dare i numeri, vi ricordo, numeri dell'8 rock, che non usciranno mai, quindi sono rock, e il tutto nella seconda ora di diretta. Ci sono sempre lì un paio di chitarrini scordati, e questo mi puzza di traduzione di brano dei Beatles, ai ai ai. Ci facciamo la seconda, dopo la strepitosa versione di Hey Judita, chissà cosa distruggeranno